Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Trent'anni fa, l'arrivo di Goldrake nelle TV italiane segnava l'inizio dell'invasione dei cartoni animati giapponesi sui nostri schermi. Ma nonostante l'enorme successo di pubblico, Goldrake e Company scatenarono una forte reazione da parte di politici, sociologi e psicologi. Ci può essere un piccolo Savonarola nelle persone più insospettabili. Un demonietto che spinge a giudicare chi si diverte e a cercare se non sia possibile trovare un antidoto allo spasso altrui. Ce lo ricorda uno spettacolo teatrale messo in scena in occasione del trentennale della prima messa in onda di Goldrake sulla TV italiana. Un balzo indietro che Daniele Timpano, autore e attore del monologo Ecce Robot, cronaca di un'invasione, fa compiere alla platea riportandola a quel 4 aprile 78 e all'infinita scia di polemiche che ne seguirono. Tutto è dunque iniziato alle 8.45 di quel martedì, sull'allora Rete 2, quando per la prima volta compare su un teleschermo italiano una serie robotica giapponese a cartoni animati, anime nella lingua del sollevante. Si tratta di Atlas UFO Robot, italianizzazione del serial di Go Nagai, al secolo Kiyoshi Nagai, nato nel 1945 a Wajima, Grandizer, poi più noto da noi altri come Goldrake. Fu un successo senza precedenti. Goldrake fu una vera e propria macchina per fare audience, tanto in Italia quanto in Francia, dove venne trasmesso qualche mese più tardi e dopo non poche perplessità. I giovani furono calamitati da questa novità e in brevissimo tempo esplose una vera e propria Goldrake mania. Un'impressionante produzione di merchandising, per lo più taroccato. Le sigle dei programmi divennero hit e perfino i giochi dei bambini ne furono modificati. I ragazzi si immedesimavano nel protagonista Duke Fleet, in italiano e francese Actarus, e le ragazzine se ne innamoravano. C'era qualcosa di male in tutto questo? Con tutta probabilità no, però qualcuno cercò di trovarcelo a tutti i costi. La paura del nuovo galvanizzò opinionisti e sociologi, pedagoghi e giornalisti, facendo in breve fioccare una pletora di articoli e studi scientifici che immancabilmente finivano per collegare la trasmissione di questo programma per ragazzi a tutte le nefandezze del mondo d'allora, dalla droga alle Brigate Rosse. Nel giro di pochi mesi fu niente meno che un parlamentare indipendente di sinistra, Silverio Corvisieri, a dar fuoco alle polveri dalle pagine della Repubblica. Corvisieri, classe 1938, era allora militante dell'estrema sinistra, comunista di Democrazia Proletaria, ex Avanguardia Operaia, redattore dell'Unità, deputato e membro della Commissione di Vigilanza Rai. Corvisieri si era scagliato con un articolo dai toni apocalittici contro la degenerazione della TV italiana, di cui Goldrake era il prototipo. L'articolo, infatti, si intitolava «Un ministero per Goldrake» e apparve su La Repubblica il 7 gennaio 1979. Corvisieri aveva sfogato così la sua frustrazione per essere rimasto inascoltato in commissione e alla Camera dai suoi colleghi, forse troppo occupati da altre questioni all'ordine del giorno, in quell'inverno 1978-79. Le Brigate Rosse che ammazzavano a destra e a manca, la crisi del petrolio. Il vulnus denunciato da Corvisieri era nel generico disimpegno qualunquista della nostra televisione di Stato, ma che con un cartone come Goldrake aveva passato il segno. Infatti Goldrake aveva la pretesa di voler trattare aspetti come la difesa della pace, la lotta fra bene e male e l'eroismo guerriero con toni che a Corvisieri proprio non andavano giù. Goldrake deve sempre affrontare qualche nemico spaziale estremamente malvagio. Si celebra dai teleschermi con molta efficacia spettacolare l'orgia della violenza annientatrice, il culto della delega al grande combattente, la religione delle macchine elettroniche, il rifiuto viscerale del diverso. In quale modo un genitore può fronteggiare con i poveri mezzi delle sue parole la furia di Goldrake? Poco tempo dopo fu l'ex compagna di Palmiro Togliatti e futura presidente della Camera, la deputata comunista Nilde Iotti, che già negli anni 50 aveva visto il male assoluto nei fumetti, ad etichettare come fascisti i cartoni giapponesi, chiudendo il cerchio e suggellando quello che Corvisieri aveva fatto solo intravedere fra le righe. Goldrake era antidemocratico e violentissimo, come Corvisieri avrebbe pervicacemente confermato in un'intervista a K Magazine 20 anni dopo. Un'esagerazione? Senz'altro. Ma questa esagerazione all'epoca smosse tutta l'armata dei mai domi Savonarola italiani, che nel breve volgere di un anno riuscirono a sollevare una polverone. Terminata il 6 gennaio 1980, la trasmissione di Goldrake già il 21 dello stesso mese è addirittura l'ammiraglia Rai 1 a trasmettere un nuovo cartone robotico. Si tratta di Mazinga Z. Mazinga Z era il prototipo capostipite di tutte le serie robotiche, ma da noi non ottenne un gran successo. Ma la proiezione sul primo canale gli diede abbastanza visibilità da scatenare le ire di un gruppo di genitori di Imola che nell'aprile 1980 lanciò una vera e propria crociata. Si raccolsero 600 e rotte firme e si fece un esposto agli allora ministri delle Poste e Telecomunicazioni e della Pubblica Istruzione, al RAI e all'ANSA, chiedendo l'interruzione delle trasmissioni di cartoni animati giapponesi in televisione. Il problema non era solo pedagogico, ma ovviamente politico. I cartoni giapponesi erano guerrafondai, lanciavano un messaggio diseducativo nel quale la scienza era al servizio della distruzione. Naturalmente che il messaggio fondamentale delle serie robotiche dell'epoca fosse esattamente l'opposto, poco importava. E venne il 13 agosto del 1980, quando su Oggi un editoriale di Nantas Salvalaggio, classe 1928, cofondatore di Panorama, titolava tutta pagina «Goldrake ammazza dal video». Nessuno si prova a fermarlo. Si trattava di una forzatura basata su un vero fatto di cronaca. Salvalaggio raccontò di un bambino di 12 anni impiccatosi con una corda nel goffo tentativo di imitare i voli di Goldrake. Il fanciullo, ipnotizzato dal satanasso giapponese, non aveva saputo distinguere tra realtà e fantasia e si era ucciso. La leggenda del bambino morto per imitare i cartoni animati, in realtà, si basava sulla reale tragedia di un ragazzino davvero deceduto per gioco, ma la meccanica era stata diversa. La piccola vittima era rimasta soffocata da una maschera di stoffa e fil di ferro che si era fabbricata da solo. Troppo poco per impressionare il pubblico. Si moltiplicavano nel frattempo le lettere dei ragazzi, addirittura di intere classi ai giornali. «Ve la prendete coi robot, ma poi lasciate in giro i giornaletti porno», si lamentavano i bambini da allora con gli adulti. Tuttavia, la maturità dei ragazzi degli anni Ottanta non riuscì ad impedire che due mannaie diverse colpissero i loro eroi dopo un decennio d'oro. La prima fu la censura imposta dalle associazioni genitori a Rai e Fininvest. Poi, nel 1990, arrivò come una bomba la legge Mammì, che vietava la pubblicità nei cartoni animati e faceva chiudere le TV locali. Le serie giapponesi divennero economicamente non convenienti e furono sostituite dai telefilm adolescenziali Made in USA, che forgiarono una nuova generazione di figli della TV. Il vento cambiò solo a metà anni 90, quando i bambini del 1978, cresciuti e con qualche soldo in tasca, riuscirono lentamente ad imporre al mercato di nuovo i propri gusti. Quello che non ebbero da piccoli come cittadini, lo ottennero da grandi come consumatori. Avete ascoltato la lettura di alcuni estratti dall'articolo di Emanuele Mastrangelo, Savonarola contro Goldrake, dal numero 39 gennaio 2009 del mensile Storia in Rete. Tornato alla guida del Nicaragua nel 2006, Daniel Ortega, l'artefice della sanguinosa rivoluzione sandinista del 1979, sta ormai perdendo consensi da ogni fronte. Quando Daniel Ortega tornò al potere in Nicaragua nel novembre 2006, in pochi si allarmarono. Il comandante della Revolución del 1979 aveva smesso i panni del guerrigliero e girava avvolto in bandiere rosa al suono delle canzoni di John Lennon, chiamando il Nicaragua alla pace e all'amore. In quei giorni però ancor meno persone si esaltarono per la rivincita di un personaggio che fu anche assai amato. Quel ritorno era frutto di indecenti accordi trasversali con gli ex nemici, poggiava su una risicata maggioranza di voti e non prometteva niente di buono. Avevano visto giusto. Dopo 2 anni. 2 anni dopo, il Nicaragua è tra i più instabili paesi dell'America Latina. Nulla di comparabile alla scia di sangue del passato, ma qualcosa di pesante è di nuovo nell'aria. Il Parlamento è di fatto chiuso dallo scorso agosto. Governo e opposizione non si riconoscono a vicenda. La crisi economica incombe, il mondo ha bloccato aiuti e finanziamenti. Ortega è isolato nella sua villa nascosta dalle palme, a Managua, quella che sottrasse a un miliardario Filo Somoza nel 1979 e dalla quale non si è più mosso. Governa affiancato dalla moglie e pochi fedelissimi, accusato del peggior codiglismo, di censura, di aver imbrogliato alle ultime elezioni amministrative. Non parla, non appare in pubblico. Ha perso soprattutto molte simpatie all'estero e nei circoli intellettuali, che erano sempre stati un punto di forza dai sandinisti. Esiste un ampio consenso, dentro e fuori il Nicaragua, che il voto dello scorso novembre, assegnando una gran maggioranza dei municipi al fronte sandinista, sia frutto di una frode guidata dal governo. Se fosse stato pulito, Ortega ne sarebbe uscito sconfitto. Gli effetti si trascinano ancora oggi. La scelta aventiniana dell'opposizione non riesce a far raggiungere il numero legale alle riunioni del Parlamento e il budget per quest'anno è fermo. Ortega è pronto alla prova di forza. Vuol far approvare la legge per decreto contro la Costituzione. Colpisce la lista dei simpatizzanti persi per strada e i regolamenti di conti con chi non approva il suo governo. Ortega è andato a ripescare una vecchia causa contro Ernesto Cardenal, 83 anni, poeta e teologo, che fu suo ministro per la cultura dopo la rivoluzione e oggi è critico sul nuovo corso. Ortega, dice, gestisce una monarchia appoggiata da poche famiglie. L'azione contro Cardenal è opera di un regime esecrabile, ha reagito lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano. Un'altra rivoluzione tradita da dentro, ha rincarato il portoghese José Saramago. Il piccolo paese centroamericano è anche nel mirino dei gruppi femministi per aver approvato la legge più rigida al mondo contro l'aborto, d'accordo con le gerarchie cattoliche. Come di costume, ogni difficoltà interna a un governo di sinistra in America Latina viene imputata all'eterno imperialismo americano. Ortega segue il copione dell'alleato Hugo Chavez e denuncia complotti, cerca una sponda con la Russia di Medvedev e dialoga con Iran e Libia. Lo scandalo delle ultime elezioni ha alienato al Nicaragua molti aiuti internazionali, che pesano per un buon 40% del bilancio pubblico. Al Nicaragua resta l'ALBA, l'alleanza poggiata sui petrodollari che il Venezuela ha distribuito copiosi ai suoi alleati in questi anni. Ma con la crisi internazionale e i problemi interni di Chavez, il futuro del meccanismo è incerto, così come la seconda vita del comandante Ortega. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rocco Cotroneo, Sandinismo addio, tradito da Ortega, dal Corriere della Sera del 12 gennaio. Letture di Radio 24. Benito Mussolini aveva un rapporto difficile con la fotografia, fatto di attrazione e repulsione al tempo stesso. Nel suo libro Dux, lo storico Pasquale Chessa ricostruisce la biografia del Duce attraverso centinaia di immagini tratte da album e archivi privati. «Ecco il solito fotografo!» esclama Mussolini mentre sta per tagliare l'ennesimo nastro. Ed ecco il solito presidente, risponde, seminascosto nel gruppo al seguito, Adolfo Porri Pastorel, con una punta di alterigia. Raccontato con misurata ironia in un trafiletto firmato da Eugenio Giovannetti sul Giornale d'Italia, l'episodio del 12 aprile 1924 fa trasparire, come in un lapsus che riveli un pensiero nascosto, il sentimento doppio di attrazione e repulsione, che si va formando nell'animo di Mussolini riguardo sia alla fotografia che ai fotografi e più in generale nei confronti dei giornali. Sebbene l'ufficio stampa del Presidente del Consiglio sia già nel pieno delle sue funzioni, siamo ancora lontani dal controllo invasivo e pervasivo di Gaetano Polverelli negli anni 30 e da quello poi capillare e avvolgente di Galeazzo Ciano e ancor più dalle brutali veline del Minculpop. Strenuamente impegnato a difendere il fascismo dagli attacchi degli avversari politici e più ancora dalle pretese politiche degli alleati, nel pieno della crisi Matteotti tutto è consentito fuorché entrare in conflitto con il principe dei fotografi romani, l'inventore della cronaca fotografica sui giornali italiani. Meglio accattivarsene la simpatia con qualche civetteria e un po' di ruffianeria. 4 mesi dopo, sarà proprio Porri Pastorel, l'unico fotografo presente al ritrovamento del corpo di Giacomo Matteotti, nel boschetto della Quartarella, alle porte di Roma, sulla Flaminia. uno scoop che lascerà un segno profondo nell'opinione pubblica e condizionerà non poco le scelte di Mussolini per uscire dalla crisi. Si conoscevano bene Mussolini e Porri Pastorel. Le foto del duce in posa che entra a Piazza del Popolo con i quadrumviri, scattate quando la marcia su Roma è già finita, erano state un'idea di Porri Pastorel. I due sembravano condividere una sorta di simbiosi, seppure da lontano, come se fossero uno indispensabile all'altro. Dei rapporti diretti tra il fotografo e il duce non si è trovata finora traccia negli archivi del fascismo. Rimangono i ricordi a voce di Porri Pastorel, che gli sarebbe sopravvissuto a lungo, dai quali si deduce una familiarità scontrosa che diventerà tipica dei rapporti fra i potenti e i loro fotografi. Raccontava che tra loro c'era stata anche un po' di ruggine per via della famosa foto del 1915, quando il Giornale d'Italia aveva sbattuto in prima pagina Mussolini, preso per la collottola dagli agenti del commissario Panetta, mentre veniva arrestato a Roma durante una manifestazione interventista non autorizzata. Ma poi le cose si erano aggiustate. Raccontava di aver avuto la concessione, seppure informale, di scattare foto poco ufficiali da vendere sul mercato straniero, dopo che un giornale inglese aveva pubblicato con enfasi una foto di Mussolini sorpreso mentre un colpo di vento gli scompigliava il suo pennacchio di Asprey. Già divo dello star system della politica internazionale, Mussolini aveva già intuito la regola fondamentale delle moderne comunicazioni di massa: la funzione del carisma nel fare notizia per bucare la pagina e imporsi all'interesse del pubblico sublimando la realtà, soprattutto all'estero, perché in Italia gli sarebbe stato via via sempre più semplice esercitare e imporre le regole della dittatura. 9 anni dopo, il 12 agosto 1933, sul Palatino, troviamo di nuovo Mussolini alle prese con un altro fotografo, indeciso mentre si arrabatta a trovare la giusta posa, alla ricerca di un quid che sembra sfuggirgli. La sequenza del fotografo Vitullo, ne conosciamo solo il cognome, lo sorprende prima sulla destra, poi sulla sinistra, pronto ad andare avanti o invece ad arretrare un poco. Con un po' di immaginazione viene spontaneo ricostruire il probabile dialogo per cercare la giusta inquadratura, per catturare la luce migliore, per realizzare un'adeguata messa in scena. Ma niente, l'idea non c'è. Poi, d'un lampo, il colpo di genio, il tocco dell'artista. Il click, lo scatto della macchina fotografica, ferma l'idea. Ecco Mussolini sul piedistallo di una colonna come fosse una statua, la statua di se stesso, dell'uomo nuovo, fascista, ma allo stesso tempo antico, come un imperatore romano. Dura, pietrosa statua, scriverà, appena rientrato dalla guerra, Giuseppe Bottai nel suo diario il 27 agosto 1936, intuendo i più profondi e remoti sintomi della crisi ineluttabile del mito del duce, proprio nel momento in cui la sindrome imperiale del regime ubriacava l'Italia con la vittoria in Etiopia al culmine della politica di potenza del fascismo. E 3 anni dopo ancora, nel suo diario, il 27 maggio 1939, sintomo dei primi dubbi sulle certezze mussoliniane, Galeazzo Ciano così vede il duce, un idolo orientale scolpito nella pietra. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro di Pasquale Chessa, Dux, Benito Mussolini, una biografia per immagini. Mondadori Editore, 402 pagine, 22 euro. Nonostante la crisi, il mercato del pet care continua a prosperare, soprattutto nelle metropoli americane, dove anche a causa di una sempre maggiore solitudine, non c'è limite nelle spese per viziare e coccolare gli animali domestici. New York, all'angolo dell'86esima strada, nel signorile quartiere dell'Upper East Side. Qui abita la medio-alta borghesia newyorkese e qui si affaccia un grande magazzino, che sembra un vero e proprio supermercato. E in effetti il Petco, uno dei 5 sparsi per tutta Manhattan, un supermercato lo è per davvero, solo che vende esclusivamente prodotti per animali. È un giorno feriale nei primi di dicembre. Il freddo, secco e tagliente, è quello di sempre nell'inverno newyorkese. Ma in altri anni, alle porte del Natale, il negozio sarebbe preso d'assalto. Le festività 2008 sono sottotono. Gli affari vanno bene, si limita a commentare Hector Bergollo, il ragazzo latinoamericano con la spilletta di store manager. Di più non parla, perché ha l'ordine tassativo di non dare informazioni sul business, ma almeno si lascia sfuggire che le file alla cassa negli scorsi Natali erano più lunghe. Ma non ci si può lamentare, perché c'è chi sta molto peggio. Gli Stati Uniti sono entrati in recessione, ma per gli animali domestici gli americani non sono disposti a fare economia. Per capirlo, basta presentarsi nell'elegante sala d'attesa del Village Medical Hospital, ospedale per animali dove l'ultima novità in fatto di cure è l'eutanasia. Il conto è a 3 zeri, eppure trovare un posto libero è un'impresa. L'industria che ruota attorno agli animali domestici negli Stati Uniti prospera più che mai. A fine anno, rivelano a sorpresa i dati dell'APMA, l'Associazione delle Industrie del Settore, gli americani avranno speso la stratosferica somma di quasi 44 miliardi di dollari, poco meno di 30 miliardi di euro, quasi quanto una manovra finanziaria, per i loro cuccioli. Una montagna di denaro, ma soprattutto 2 miliardi di dollari in più rispetto all'anno scorso. Sugli animali domestici si pretende il meglio. Nell'anno più nero da decenni, la maggior parte dei padroni di cani ha comprato cibo di marca premium, quello più caro e di qualità per i propri animali. Nel clima pesante che affligge l'America, trovare un settore dove i consumi non siano in calo fa notizia. Sulla spinta di un crescente bisogno di affetto e di una sempre maggiore solitudine, soprattutto nelle grandi metropoli, dove ormai i single sono la maggioranza, la spesa per gli animali è più che raddoppiata negli ultimi anni. Nel 1994 il giro d'affari dell'industria era di appena 17 miliardi di dollari. A far impennare il business non sono però solo i negozi che vendono croccantini, spazzole e vestitini per animali, che pure rappresentano ancora la fetta più grossa della torta, pesano per 18 dei 43 miliardi, ma i servizi sempre più esclusivi e costosi che fanno breccia in una clientela sofisticata ed esigente. Nell'Upper West Side, altro quartiere residenziale di New York, che è un continuo susseguirsi di eleganti e lussuosi palazzi, l'Happy Paws, letteralmente cuccioli felici, è un famoso albergo per cani. Per 15 dollari passa a prendere l'animale a casa e per altri 15 si prenota anche il viaggio di ritorno. Lì, con 35 dollari al giorno, l'amico a quattro zampe può godere di spazi attrezzati per alloggiare, fare amicizia con altri esemplari nelle aree comuni, oppure fare un salto in giardino, che ovviamente è attrezzato di tutto punto con giochi canini. Se poi l'ospite, di fronte al nuovo ambiente, si innervosisce, il personale gli somministrerà una dose di Prozac. E se si aggiunge un altro dollaro al giorno, c'è anche una copertura assicurativa fino a 1000 dollari di danni. I resort per cani sono però ormai la norma e la nuova frontiera del business passa per eccessi come le spa per animali o le cliniche per l'obesità, dove la cura più diffusa è lo Slentrol, un farmaco prodotto dalla multinazionale Pfizer, quella del Viagra. D'altronde il business è tale da far scomodare i colossi del farma. Per le sole medicine e cure mediche nel 2007 il giro d'affari è stato di 9,9 miliardi, quest'anno si toccheranno i 10 miliardi e mezzo. In percentuale è un progresso del 6,5%, vale a dire 6 volte la crescita della sfittica economia americana, il cui PIL salirà dell'1%. Tanta attenzione a consumi effimeri potrebbe far storcere il naso ai meno abituati agli eccessi del consumismo americano, ma ormai, spiega Laura Bennett, il numero uno della Embrace Pet Industries, la popolazione invecchia ed è sempre più sola. Gli animali domestici si stanno sostituendo ai bambini e ai familiari nelle case e come tali vengono trattati, viziati e coccolati. Ne sanno qualcosa alla boutique di Pariero, negozio super chic del Greenwich Village, uno dei quartieri più trendy della città, che vende abiti griffati per cani, ma solo di piccola taglia. Al non proprio economico prezzo di 100 dollari si può portare a casa una ciotola per la pappa e con il doppio una cuccia in stoffa leopardata. Con 160 milioni di animali in casa, senza contare gli uccelli da gabbia e gli animali esotici, che portano il totale a 190 milioni, quella di cani e gatti è un'industria fiorente, ma non vuol dire che faccia diventare automaticamente miliardari. I dati del Dipartimento del Lavoro dicono che 2/3 delle nuove attività in questo settore non superano la soglia dei 2 anni di vita e per chi ce la fa, meno della metà dura 4 anni. E si tratta solo di sopravvivenza, non di arricchimento. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Simone Filippetti, Cuori di cane, dal numero 5 gennaio 2009 del mensile Il Intelligence Lifestyle, in vendita in abbinamento al Sole 24 Ore.